in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare sono due sostanzialmente le notizie oggi in prima pagina. Da una parte la vittoria di Joe Biden, che sarà il 46esimo presidente negli Stati Uniti, salvo naturalmente gli sviluppi dei prossimi giorni annunciati da Donald Trump, e l'altro naturalmente sono l'altra notizia sono gli aggiornamenti sull'evoluzione dell'epidemia da Covid in Italia e nel mondo. Purtroppo i quotidiani, per una semplicissima questione di fuso orario, non sono riusciti a dare conto del discorso che ha tenuto Joe Biden alle 2 di notte, quindi erano alle 2 di notte nostre, il suo discorso e il discorso di Kamala Harris. Ne avete sentito una brevissima parte nel GR e consiglio a tutti di ascoltarlo, perché trovo che sia stato un discorso, entrambi i discorsi, molto interessanti. E quindi partiamo dal Sole 24 Ore, la foto in prima pagina: l'America ha scelto Biden. Qui ci sono molti approfondimenti, come del resto su tutti i quotidiani. Sapete che perché ha scelto di parlare Joe Biden, e quindi perché diciamo che è il 46esimo presidente degli Stati Uniti? Perché con l'assegnazione della Pennsylvania lui ha superato quei 270 voti elettorali che sono necessari per avere la presidenza. Ci sono ancora degli stati dove il conteggio non è finito, ma anche se il conteggio desse in quegli stati vincitore Donald Trump, comunque avendo Joe Biden superato questa soglia dei 270 grandi elettori, sarebbe comunque presidente. Tra questi approfondimenti del Sole 24 Ore vi segnalo in particolare un articolo di Marco Valsagna, uno dei corrispondenti del Sole 24 Ore da New York, che comincia già a ipotizzare come potrebbe essere l'amministrazione Trump, cioè l'amministrazione Biden, cioè il governo che Joe Biden metterà insieme. Ricordo ancora una volta che le elezioni si sono svolte il 3 novembre. C'è adesso il periodo di transizione, l'insediamento ufficiale di Joe Biden avverrà soltanto il 20 di gennaio. In questo interregno si insedierà anche il nuovo Senato, e anche lì non è ancora certo quale sarà la composizione del Senato, molto probabilmente un Senato esattamente spaccato in due. E poi ci sono anche ancora delle elezioni che si devono tenere in Georgia, proprio per i senatori, e quindi anche lì questo periodo sarà proprio un periodo di transizione in cui Joe Biden lavorerà alla sua nuova squadra. Il primo annuncio è stato che già lunedì ci sarà una nuova task force per combattere l'epidemia. L'altro articolo interessante di Moria Longo, perché lunedì vedremo come reagiranno le borse quando apriranno, e Moira Longo si occupa proprio di questo. L'articolo a pagina 2 intitolato "In borsa ora restano due incognite: listina in contropiede in caso quello che vi dicevo di guerra istituzionale, cioè di come andrà questa per questo periodo di transizione, oppure Senato ai democratici". A pagina 3 altri due approfondimenti sempre del Sole 24 Ore, invece più sulla cronaca, su quello che è successo, in questo caso affidato a Riccardo Barlam, che avete sentito anche spesso in questi giorni appunto aggiornarci dagli Stati Uniti. Corriere della Sera: l'America ha scelto Biden. La foto qui è di Joe Biden che alza il braccio e alza il braccio, e accanto a lui alza il braccio anche Kamala Harris. Entrambi hanno la mascherina. Neopresidente degli Stati Uniti Joe Biden con la sua vice Kamala Harris. 77 anni Joe Biden, ne compierà 78 prima di quel famoso 20 gennaio, e Kamala Harris 56 anni. La foto in realtà non è stata scattata ieri, è una foto che risale alla convention dei democratici dell'agosto scorso, quando si formò questo che gli americani chiamano ticket, cioè la scelta di chi corre come presidente e del suo vice. Qui naturalmente tantissimi commenti anche qui, vi segnalo quelli che ci sono in prima pagina. Uno di Massimo Gaggi, che inizia con "You are fired", che era lo slogan che Donald Trump usava nella sua famosa trasmissione The Apprentice. alla fine appunto analizzava alcuni candidati a un incarico di manager, di capo azienda, se non era contento, poi alla fine questo era appunto lo slogan. E poi ce n'è uno di Aldo Cazzullo, Il ritorno al centro. Qui vi leggo le prime righe anche perché le ultime mi hanno così un po' colpita. Comunque, ognuno, appunto, oggi ci sono tanti commenti, è domenica, avete tempo se volete, se avete voglia, tantissime reti, tantissimi canali su YouTube offrono l'originale di questo discorso che vi dicevo e anche la traduzione in italiano, quindi appunto al di là dei commenti sui giornali italiani, se avete voglia e tempo, andate direttamente alla fonte, ascoltate le parole, in attesa anche, oltre ai tweet, eventualmente delle parole di Donald Trump. Sono arrivate quelle di altri repubblicani, ma non ancora quelle del presidente Donald Trump. Vi dicevo le prime righe dell'intervento dell'editoriale di Aldo Cazzullo. E se contro Trump avesse corso un candidato fresco, giovane, ma radicale e socialisteggiante? Forse sarebbe andato molto peggio di Biden. Manca la controprova, ma c'è un indizio. Prima della vittoria di Trump, il 2016 aveva riservato lo shock della Brexit. Ricorderete appunto le elezioni americane del novembre del 2016, vinte da Donald Trump, ma in giugno di quell'anno c'era stato il referendum nel Regno Unito, dove di misura avevano vinto le persone favorevoli alla Brexit. E continua Aldo Cazzullo. Un verdetto confermato dalle elezioni del dicembre 2019, quelle dove vinse con una grande maggioranza Boris Johnson, affrontate e stravinte da Boris Johnson con lo slogan Get Brexit Done. Scusatemi, Aldo Cazzullo scrive Get Brexit Down, togliamoci l'Europa di torno. No. Non è mai stato questo lo slogan di Boris Johnson. Lo slogan di Boris Johnson è un modo di dire della lingua inglese, che è Get Brexit Done, cioè facciamo in modo di risolvere la questione della Brexit, che, come ha scritto lo stesso Cazzullo qualche riga prima, era stata decisa in un referendum del 2016. Non erano bastati 3 anni a stabilire un accordo, c'è voluto Boris Johnson, il cui slogan quindi era Get Brexit Done. Per questo vi dico, è importante, andate alla fonte, perché ci sono tante idee, tanti commenti anche interessanti. A volte però, se ci si fida troppo dei commenti dei giornalisti italiani, poi si rischia appunto di travisare un pochino la realtà. Tra l'altro, prima di noi, lo dico, mi fa molto piacere, ho ascoltato l'intervista Marta Cagnola e ai Maneskin, e c'era anche un brano della loro canzone. Ecco, io vabbè, faccio qui un coming out, io adoro questo giovane gruppo italiano, anche se sono di una generazione completamente diversa, e questo passaggio del testo, spiegare cos'è il colore a chi vede solo bianco e nero. Ecco, è proprio qui la questione. Ascoltate questi discorsi, speriamo presto di avere anche un discorso di Donald Trump, e anche guardiamo i dati, perché gli Stati Uniti circa metà delle persone che hanno votato per Donald Trump e per i candidati repubblicani al Senato, che è stato rinnovato per un terzo, e alla Camera, che è stata interamente rinnovata, non dimentichiamocelo mai. Mai vedere in bianco e nero, da una parte i democratici, dall'altra i repubblicani. Chi ha votato repubblicano, chi ha votato per Donald Trump, avrà sicuramente le sue ragioni, ed è per questo ancora una volta che vi invito ad ascoltare le parole di Joe Biden, che ha detto sostanzialmente: io mi sento ancora più responsabile verso chi non ha votato per me in questa elezione. La Repubblica, Biden-Harris, gli USA voltano pagina, sfrattato Trump, il nuovo presidente ora serve unità, per la prima volta una donna come vice. Questa è sicuramente una delle tante novità di questa elezione. Moltissimi anche qui i commenti, praticamente tutti sulle elezioni, tranne l'editoriale di Eugenio Scalfari, che si intitola Quei libri che hanno fatto la storia, ma l'aveva dichiarato 2 o 3 settimane fa che non si sarebbe più occupato di cronaca. E poi un intervento di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci con anche un'intervista a Brusaferro, Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, le nostre scelte non guidate dalla politica. La stampa, Biden, Harris, gli Stati Uniti, la foto è la stessa che ha usato il Corriere, quindi non scattata ieri ma risale all'agosto appunto di quest'anno. L'editoriale di Massimo Giannini, direttore della stampa, qui è il titolo a essere un po' fuorviante perché dice il 25 aprile dell'America e del mondo, quindi 25 aprile come sinonimo di liberazione. In realtà il ragionamento all'interno è molto più articolato e sottolinea, per fortuna, perché mi ero un po' spaventata da questo titolo, che è appunto la situazione molto più complessa di quello che dice il risultato finale. Anche qui tantissimi commenti. Paolo Mastrolilli, subito la sfida al Covid, ora curiamo le ferite. Era inviato a Wilmington in Delaware, dove Joe Biden ha tenuto il suo discorso ieri sera per gli Stati Uniti, questa notte per noi. Gianni Riotta da New York, Joe il pacificatore, un cattolico dopo JFK, è un dettaglio non da poco, perché sono molti i cristiani negli Stati Uniti, non così tanti i cattolici, in particolare lo è stato JFK, e può sembrare strano sottolinearlo, però in realtà appunto per gli Stati Uniti è la prima volta di un presidente cattolico dopo JFK. E poi un articolo di Simona Siri, tra l'altro voce che qui a Radio 24 gli ascoltatori conoscono perché è intervenuta sulle questioni americane più di una volta, che racconta un po' quello che ha visto, lei vive a New York, dalle sue finestre. Folla libera in strada, la guerra è finita. Questa è l'impressione appunto da New York, ricordiamocelo sempre, con una tendenza che abbiamo visto anche in tante elezioni europee. Nelle città c'è stato un voto di un tipo, in altri posti, nelle province, e la provincia americana è sconfinata perché sconfinato è il paese, il voto è stato molto diverso. Quindi il punto di vista di Simona Siri è da New York. Tra l'altro la città e lo stato di New York erano tra quelli, insieme alla California ad altri, che fin dall'inizio si era quasi sicuri che sarebbero andati, come poi è stato, al Partito Democratico e a Joe Biden. Il Messaggero, l'America ha scelto Biden, la preghiera di Joe, ora basta conflitti, tra l'altro in uno dei passaggi, perché anche questa scelta di parole, della parola preghiera, oltre al fatto che Joe Biden è appunto un cattolico e non lo nasconde, anzi lo ha detto più volte, ripete sempre, spiega sempre quando si reca per esempio a messa, ma è particolarmente adatta questa mattina questa scelta di parola, perché Joe Biden nel suo discorso ha anche citato l'Ecclesiaste, che è un testo biblico, e dicendo, sapete che l'Ecclesiaste lo abbiamo forse nelle orecchie in tanti, perché usa molto questo espediente, diciamo, retorico: c'è un altro momento per. Ecco, appunto, Joe Biden ha detto: questo è il momento della riconciliazione. Un accenno anche sulla questione Covid, il Messaggero, con questo angolo: i sindaci possono chiudere le piazze, sanità al collasso. E poi naturalmente c'è la notizia, ma l'avrete letta, sentita, ascoltata ovunque, dopo l'intervento sconvolgente del commissario straordinario per la sanità Calabra, Cotticelli, che durante la trasmissione della RAI Titolo Quinto, dedicata ai conflitti che ci possono essere, o meglio, il titolo quinto è quel titolo della Costituzione che è stato modificato per dare più autonomia alle regioni, in particolare per quanto riguarda la sanità. La trasmissione prende il titolo da lì, ci si occuperà credo in futuro anche di questioni che non riguardano strettamente la sanità, ma l'argomento della trasmissione era la sanità. Cotticelli ha detto che non sapeva di essere commissario anche per il Covid, e da qui poi ieri le sue dimissioni e la sua sostituzione. Ci fermiamo però un attimo e sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. In primo piano. Eccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, ci mancano ancora tante prime pagine, grazie agli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp e naturalmente grazie agli ascoltatori tutti. In particolare l'ascoltatore che dice Biden è talmente cattolico che è favorevole all'aborto fino al nono mese, non ho idea, sono 5 minuti che ci sto pensando, di dove questo ascoltatore possa aver letto questa notizia. Gli ricordo solo, e questa invece la trova molto facilmente su internet, che Donald Trump si è curato con un farmaco sperimentale che per sua fortuna lo ha praticamente guarito dal coronavirus, si chiama Regeneron, è un farmaco fatto con le cellule staminali dei feti degli aborti selettivi, cioè quegli aborti dove la donna ha scelto di abortire non per ragioni mediche ma per sua scelta. L'unica cosa che posso dire all'ascoltatore è che Joe Biden è pro-choice e non pro-life, cioè è per dare la libera scelta alle donne di decidere se abortire entro il terzo mese naturalmente, e non pro-life, cioè di impedire alle donne di abortire in qualsiasi caso. E all'ascoltatore invece che mi chiede perché l'Alaska ha votato Trump, non lo so, è in effetti una domanda interessante e tanto interessante che cercherò informazioni, e quindi ringrazio l'ascoltatore per aver portato la mia attenzione sul caso dell'Alaska. Mi dispiace di non potergli dare una risposta, ma in realtà non ho risposte per nessuno su queste questioni, ogni stato va esaminato e anche in quel caso ogni stato, sapete, è diviso in contee che sono simili alle nostre province ma a volte molto più piccole di quello che erano una volta le province delle nostre regioni, e a volte con grandi differenze tra contee. Dall'Avvenire, che titola l'America volta pagina, vi segnalo un discorso che a me ogni volta che lo sento o lo leggo tradotto o non tradotto fa venire i brividi, che fu quello di John McCain quando la sera delle elezioni nel 2008 fece i suoi complimenti a Barack Obama che aveva vinto quelle elezioni, e un lettore dell'Avvenire ricorda questo discorso al direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio, che ha una rubrica di lettere in cui risponde ai lettori ogni domenica, e vi leggo, perché lo trovate a pagina 2, un brano di questo discorso di John McCain, repubblicano naturalmente, aveva sfidato con vice Sarah Palin Barack Obama, che aveva già come ticket appunto il suo vicepresidente, sarebbe poi stato l'attuale presidente eletto Joe Biden, e disse davanti ai suoi sostenitori a Phoenix in Arizona, perché John McCain era dell'Arizona. Amici miei, siamo arrivati alla fine di un lungo viaggio. Il popolo americano ha parlato e ha parlato chiaramente. Poco fa ho avuto l'onore di telefonare al senatore Barack Obama per congratularmi con lui. Poi ci sono altri passaggi e vi leggo l'ultima parte di questo intervento che un lettore, Aldo De Chiara, ha ricordato a Marco Tarquini. Raccomando a tutti gli americani che mi hanno sostenuto non solo di unirsi a me nel congratularsi con Obama, ma di offrire al nostro prossimo presidente la nostra buona volontà e i più onesti sforzi per scoprire le strade che ci aiutino a trovare i necessari compromessi per stabilire dei contatti fra le nostre differenze, così da aiutarci a ripristinare la nostra prosperità, difendere la nostra sicurezza in un mondo pericoloso e lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un paese migliore di quello che abbiamo ereditato. Auguro le migliori cose all'uomo che era il mio avversario e che sarà il mio presidente. Ripeto, a me, anche adesso rileggendolo, sono venuti i brividi. Il giorno titola in realtà sul Covid, guida anti-Covid, due punti, ecco cosa si può fare naturalmente nelle varie zone, rossa, arancione o gialla, sarebbe prevista anche una zona verde, però nessuna delle nostre 20 regioni in questo momento è zona verde. La foto però è quella di Joe Biden, un uomo tranquillo. Il Fatto Quotidiano, due titoli, uno subito sotto la testata, Biden sloggia Trump, e poi per quanto riguarda il Covid, regioni zero vaccini e dati sotto inchiesta. Libero. Le previsioni del governo non ci riapriranno più, è un virgolettato perché viene da un'intervista che Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ha fatto all'autore del libro Io sono il potere, che non si sa esattamente chi sia questa persona, però appunto è un capo di gabinetto, scritto con la giornalista La Stampa Giuseppe Salvaggiulo, E la rivelazione è appunto: un capo di gabinetto rivela a Libero i piani del premier. Usciremo all'Immacolata, cioè l'8 dicembre, un mese di shopping e cenoni. A gennaio diranno che siamo stati irresponsabili e richiuderanno tutto. Il commento su Trump è di Vittorio Feltri. Se avete appunto, se avete interesse a leggere un'opinione sicuramente a proposito di bianco e nero, molto netta, di Vittorio Feltri, Trump detestato da vari giornalisti progressisti. Vi leggo le prime righe da cui si capisce tutto, si capisce il tono dell'intervento, non tutto, ma appunto vi invito a leggerlo. Anzi, guardate, siccome è molto breve ve lo leggo tutto, perché inizia e finisce in prima pagina. Comincio col dire che le elezioni tenutesi negli Stati Uniti mi hanno emozionato come una partita di calcio di Serie C. Non mi hanno minimamente appassionato. Mentre ho seguito con molto interesse i commenti riguardanti Trump e Biden prodotti dai soliti sapientoni da talk show o prima pagina, ho udito e letto cose turche. Piccolissimo inciso, perché poi in realtà mi fermo qua. Peccato che invece non abbia Vittorio Feltri, per avere un'opinione un pochino così più di spettro, un pochino più ampio, non abbia ascoltato anche i commenti dei talk show negli Stati Uniti o in altri paesi. Certo che ascoltare solo quelli dell'Italia è così, non fa bene al processo di costruzione di un'opinione. Il Giornale. Scandalo in Calabria, ne abbiamo parlato prima, in mano a incapaci. Conti, dopo averlo nominato, caccia il commissario che non sapeva di dover fare un piano anti-Covid. Questo commissario della sanità straordinaria, della sanità in Calabria, che è una regione con una delle sanità più disastrate dell'intero nostro paese, è stato nominato dal primo governo Conte, poi riconfermato da questo governo Conte. In prima pagina però c'è anche la vittoria di Biden con questo titolo: Biden è presidente, virgola, ma comanda già Kamala. E va bene. La Verità: Renzi indagato, spara su Verità e PM. Un'altra delle notizie di ieri è che è stata aperta un'altra inchiesta sul leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L'ex premier va all'assalto, le toghe mi hanno fatto perdere consensi, l'inchiesta è un assurdo giuridico di magistrati a caccia di visibilità che passano informazioni al giornale, ma gli inquirenti tirano dritto e preparano l'interrogatorio fissato già per il 24 novembre. La notizia riguarda dei finanziamenti della Fondazione Open direttamente a Italia Viva e ad alcuni suoi esponenti. Il titolo su Biden è questo: Biden è presidente, ora la palla è ai giudici. I media USA danno l'annuncio mentre mancano ancora molti voti postali, oggetto di possibili riconteggi e ricorsi. L'uscente non è finita. La Corte Suprema potrebbe pronunciarsi sulla Pennsylvania, stato chiave. Quattro commenti in prima pagina, più un lungo articolo di Stefano Graziosi, che era ospite con me qui mercoledì mattina da Simone Spezia 24 mattina. I quattro articoli sono tutti dello stesso segno, sono di Claudio Risè: Donald è stato il vero selvatico. Sapete che la rubrica di Carlo Risè è il lato selvatico. Lascerà il segno anche sconfitto. Carlo Pelanda: l'alleanza tra globalisti e politica adesso fa paura. Maria Giovanna Maglie: la sinistra adora il popolo solo quando la fa vincere. E poi Marcello Veneziani: consoliamoci, gli anti-Trump destinati all'estinzione. Manca poi anche un altro articolo che invece è apparso sulla Verità, no, su Libero. Libero è di Antonio Socci, poi se c'è tempo ne leggiamo qualche riga. Il manifesto: American Beauty, Joe Biden conquista la Casa Bianca, Kamala Harris prima vicepresidente donna della storia degli Stati Uniti, decisivo il voto in Pennsylvania, ma anche le mobilitazioni antirazziste, festa di liberazione nelle strade, Trump non riconosce la sconfitta, va a giocare a golf. In realtà Trump, per precisione, era già andato a giocare a golf quando è arrivata la notizia appunto che con l'assegnazione della Pennsylvania si superava, come abbiamo detto all'inizio, la famosa soglia dei 270 voti e quindi Joe Biden poteva essere proclamato 46esimo presidente degli Stati Uniti. Ci lasciamo un attimo e sentiremo qualche aggiornamento sul traffico. in primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci manca solo la prima pagina di Domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri in edicola dal 14 settembre, il più giovane dei nostri quotidiani. Due gli articoli in prima pagina, uno del direttore Stefano Feltri, un'elezione che cambia davvero le nostre vite, e poi la cronaca di Arianna Farinelli da New York, vince un'altra America, vince la democrazia, vincono Biden e Harris. Adesso andiamo sulle pagine interne dei giornali, che non so dove ho messo, ma ci sono. e torniamo naturalmente sul Sole 24 Ore. Dal Sole 24 Ore vi segnalo l'approfondimento sul decreto Ristori bis, che riguarda tantissime persone. Tutte le persone che hanno avuto un danno maggiore magari di altri, perché tutti abbiamo avuto un danno da questo periodo, l'emergenza sanitaria, poi quella economica e sociale, ma naturalmente c'è chi, soprattutto per le chiusure, quelle iniziate all'inizio di marzo e quelle adesso di questo nuovo lockdown, hanno avuto veramente un danno che mette a rischio la loro stessa sopravvivenza, se non altro economica. Da qui il decreto Ristori bis da 2,8 miliardi, aiuti nel groviglio di codici e calcoli, perché poi purtroppo, come ogni provvedimento in Italia, il problema naturalmente è l'attuazione e anche la praticità di come viene scritto. Rapidamente dal Sole 24 Ore anche un bell'incontro di Paolo Bricco della serie A Tavola con Chiara Valerio, che è appena uscita con un libro sulla sua scienza, la matematica, ma è molto interessante questa chiacchierata, perché appunto da scienziata parla in generale della visione del mondo che può avere una persona che si è formata con la matematica, scrittrice, editor di narrativa, formazione matematica, è dietro le quinte tra le menti più influenti della sua generazione. Molto interessante questo incontro con Chiara Valerio. E poi quattro pagine intitolate Il coraggio del futuro, perché sicuramente il pessimismo, io poi che sono una pessimista per natura, il pessimismo insomma ha tanti motivi in questo momento, però dobbiamo per forza di cose cercare di guardare oltre il presente e immaginarlo migliore. Il coraggio del futuro, ci sono molti interventi, per esempio uno interessante, temi tutti da Sole 24 Ore, quindi per esempio sulla fiscalità, costruire una fiscalità nuova, leva di coisione della società. E in questo caso l'approfondimento è di Francesca Mariotti, che è direttore generale di Confindustria, che come sapete controlla il gruppo che a sua volta controlla il quotidiano, la radio e Radio Corp. Dalla pagina consueta di Sport e Business della domenica sul Sole 24 Ore vi segnalo l'approfondimento di Marco Bellinazzo, stadi chiusi, ora 400 milioni per salvare lo sport. La sezione Lifestyle questa settimana affidata alla copertina a Giovanna Mancini, tra materiali e creatività e questione di chimica, quindi un approfondimento appunto su come si intersecano questi due aspetti del mondo dell'arredo e del legno arredo e dei complementi d'arredo, che sapete è così importante per l'Italia. Elementi tradizionali antichi vengono riscoperti e trattati in modo inedito, creando effetti sorprendenti. Dal Corriere della Sera vi segnalo due pagine che sono forse anche casualmente fronteggianti. A pagina 22 la notizia di un'ultima sentenza della Cassazione sul divorzio. Nel caso di divorzio e quindi della decisione dell'ex marito di versare un assegno alla moglie, stop all'assegno se l'ex moglie dorme con il compagno. Fronteggiante, ripeto, questa notizia la trovate su tutti i giornali, ve la segnalo dal Corriere, della nomina di Luisa Pellizzari a vicecapo della polizia. È la prima donna nel ruolo e il virgolettato molto significativo, secondo me, scelto per il sommario dell'articolo è: amo questo lavoro, conta la squadra. Vi segnalo poi Aldo Cazzullo, lo abbiamo citato per il suo intervento sulle elezioni americane, ma ha anche intervistato Miuccia Prada, che è co-amministratore delegato dell'omonimo gruppo insieme al marito Patrizio Bertelli, ma è anche presidente della Fondazione Prada, che ha due sedi, una a Milano e una a Venezia. si sta per aprire questo programma di mostre, convegni e pubblicazioni che si concluderà poi nel novembre 2022, che si intitola Human Brains. E di questo lei parla, appunto perché questa scelta è una sfida dura, ma il lockdown può dare una spinta alla creatività. La stilista dice che il grande tema oggi è lo studio del cervello. In effetti resta probabilmente il mistero più grande tra tutti quelli che nascondono il nostro corpo. Passiamo ai supplementi della domenica, in questi pochi minuti che ci restano. Cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Un secondo, e la citazione dal libro Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll è questa: Alice, quanto lungo è per sempre? E il coniglio bianco, l'altro grande protagonista del romanzo appunto di Lewis Carroll, scritto, lo ricordiamo, nel 1865, è a volte solo un secondo. E scrive Ravasi. Può sembrare un paradosso la risposta che il coniglio bianco offre alla domanda solo apparentemente infantile di Alice, ed è invece una delle grandi lezioni che la bambina del celebre racconto impara, una volta precipitata nel pozzo profondo seguendo quell'elegante bestiola. In sostanza è il tema dell'eternità, che già Goethe formulava in modo analogo nell'attimo bello che Faust sognava di fissare per sempre. L'eternità, appunto, non è, come temporalmente la si immagina, una durata lunghissima che non cessa mai. È un secondo, un istante perfetto che tutto in sé riassume, senza i limiti del flusso temporale. È ciò che possono pregustare coloro che vivono un amore pieno e perfetto. Quel momento supremo è la vera parabola dell'eterno e dell'infinito. Oppure l'esperienza di una gioia unica e assoluta. Certo, per noi che viviamo ancora nel tempo e nello spazio, subentra poi il gocciolare del tempo, cioè il limite e l'evanescenza, ma aver vissuto quell'istante è un assaggio della stessa vita divina. La copertina vera e propria è un articolo di Luigi Sampietro, che è una lunga recensione a un libro pubblicato dalla Princeton University Press sulla storia dei puritani, Quei padri pellegrini birichini. E poi vi segnalo, in questi pochi secondi che ci restano, la copertina di Robinson, il supplemento settimanale culturale della Repubblica, che esce sabato ma poi resta in edicola tutta la settimana. La copertina è dedicata a Dostoevskij. Leggerlo sempre, leggerlo comunque, ma soprattutto leggerlo di questi tempi, ecco perché la terapia Dostoevskij. E invece la lettura del Corriere della Sera affida la prima pagina a un artista, questa settimana è Giorgio Milani, e l'approfondimento delle prime quattro pagine: da una parte Tolstoi, dall'altra Putin. Tolstoi il grande contestatore, Putin il grande restauratore. E sempre dall'ultimissima segnalazione dalla lettura, un interessante spunto di Damiano Fedeli: per sopravvivere vendiamo capolavori. In tempi di difficoltà economiche e chiusura a causa del virus, i musei mettono all'asta tesori delle collezioni, come ha fatto il Brooklyn Museum. Ma insomma, è una storia interessante di tempi di Covid. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, un grazie a tutti voi ancora per l'ascolto, per i messaggi, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.